Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Un saluto da Maurizio Meli. Se i primi detersivi concentrati sono comparsi sul mercato anni fa e di recente si è arrivati a vendere il solo principio attivo, che per essere utilizzato deve prima essere diluito con acqua. L'idea è banale: più del 90% di un detersivo è acqua, la stessa che esce da qualunque rubinetto, ed è perciò inutile confezionarla e trasportarla per centinaia di chilometri a bordo di migliaia di camion. Ebbene, una situazione molto simile ma molto meno nota si verifica nell'edilizia per quanto concerne tutti quei materiali da costruzione, diciamo escluso il solo calcestruzzo. Parliamo quindi di rasanti, colle, stucchi, impermeabilizzanti, intonaci e così via. Allora, stasera parliamo di Personal Factory, una delle startup con le migliori performance nel panorama nazionale, con sede a Vibo Valentia, ormai almeno al quinto anno di attività, la quale ha messo a punto un sistema appunto per superare questa situazione un po' paradossale. Ne parliamo con Francesco Tassone, che insieme al fratello Luigi ha appunto fondato Personal Factory e partecipato a progettare Origami, che è il sistema di cui vi parleremo a breve. Buonasera Tassone. Buonasera. Allora, intanto ci ricorda quali sono gli ingredienti principali di tutti questi materiali da costruzione? Abbiamo detto escluso, ma in realtà incluso il calcestruzzo, e quanto pesano? Tutti questi prodotti sono fatti in larghissima parte da componenti poveri, cioè sabbia e cemento. Ci può essere qualcosa con la calce, col gesso, ma comunque tutta una serie di materie prime a bassissimo valore aggiunto e che fanno sì che compongono il 98% del prodotto finito. Ecco, non solo hanno un basso valore aggiunto, ma sono molto reperibili. Sì, su tutti i mercati internazionali nel raggio di 50-100 km c'è una fonte di materie prime. Cioè, non sono materie prime scarse in giro per il mondo. Sì, insomma, la sabbia si trova un po' dappertutto, il cemento, insomma, si riesce a fare un po' dappertutto. E il problema qual è? Che invece poi per tutti questi materiali che citavo, rasanti, bla bla, c'è un po' una piccola quota di chimica, circa un 2%. Dipende molto dal prodotto, ma si va da un 4-5% fino a uno 0-1% in determinati casi. Dove sta anche tutto il know-how della produzione? Perché questa piccolissima quantità di componenti chimici in realtà è una parte estremamente complessa, fatta da decine di additivi, resine, polimeri, via dicendo, che comporta una produzione di centinaia di prodotti finiti. Noi abbiamo a catalogo 600 prodotti. Sono 600 miscele di circa un'ottantina di additivi diversi. Ecco, il problema è che normalmente non è che si trasporta solo questa componente preziosa, ma si trasporta tutto, no? Cioè, uno va a comprare il rasante, lì dentro c'è il 98% di roba che arriva magari da 1000 chilometri dove hanno fatto l'additivo e che viaggia inutilmente. Esatto, perché purtroppo il paradigma classico per centralizzare anche il know-how si centralizza la produzione, quindi vuol dire che si ha anche un problema di approvvigionamento, per cui gli stabilimenti si approvvigionano da centinaia di chilometri perché hanno bisogno di volumi molto grandi e distribuiscono a distanza di migliaia di chilometri, ma sostanzialmente stanno trasportando sabbia e cemento che esiste dappertutto. E qui arriviamo evidentemente alla vostra soluzione, che è l'equivalente della capsula del detersivo. Qui è un pochettino però più complicata la cosa. Arriviamo a questo Origami. Origami non è altro che una microfabbrica estremamente intelligente che permette di fare una produzione locale utilizzando materie prime locali. C'è un piccolo magazzino materie prime che vengono dosate, miscelate, confezionate e fino ad arrivare al sacco di prodotto finito che io trovo sul mercato. Contemporaneamente la macchina si occupa di controllo qualità, tracciabilità, gestione processo, cioè permette di fare un prodotto che comunque rispetta anche più elevati standard moderni. Quindi è un apparato che occupa 6 metri quadri circa, la sabbia, il cemento, insomma quelle robe lì si prendono appunto nel posto più vicino, e poi ha una specie di caricatore, diciamo così, se ho capito bene, in cui si mettono i vari additivi, una dozzina, e lì è lui che fa tutto il lavoro di dosaggio e quant'altro. Senta, qual è il risparmio alla fine che si ottiene, per esempio in termini di riduzione dei trasporti? Allora, il trasporto si riduce da un trentesimo a un cinquantesimo, quindi stiamo parlando di un'enorme riduzione di trasporto, e in termini economici, visto che tutto questo trasporto, trasportare sabbia e cemento costa, permette un beneficio che è superiore al 50%, quindi permette un guadagno molto importante per il cliente finale. C'è una prospettiva ancora più interessante, diciamo, che riguarda invece l'utilizzo di materiali innovativi. Ci spiega un attimo. In realtà il grosso vantaggio di avere una produzione locale è che permette di superare il paradigma dello standard a tutti i costi. Per il semplice motivo, si possono usare piccole fonti di materie prime locali, che possono essere materiali da riciclo, cioè il riciclo da demolizione è un prodotto su cui noi lavoriamo molto. Tutto quello che è smaltimento oggi non si può applicare nel processo, non perché non c'è la tecnologia per farne il prodotto, ma perché il processo industriale prevede che devo trasportare materiali da demolizione per migliaia di chilometri. Certo. Quindi il sistema non sta in piedi. Grazie, grazie Francesco Tassone. Grazie a lei, buona serata. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.